This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Feel no harm. never be found. Keep spinning in circles till you break new ground. Benvenuti anche questa sera a This Is Not An Exit. Buonasera, dottor Scarpa. Buonasera, Babbe, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Oggi siamo partiti un po'... sognanti. Sognanti, sì, sognanti, possiamo dire così, però... Non è neanche un incubo. Beh, insomma, certi pezzi forse sono un incubo. Stiamo parlando dei Mercury Rave. Band del East Coast... americana, siamo sempre lì, c'è poco da fare, ci piacciono gli Stati Uniti, lo sapete, voi che ci ascoltate ormai da 2 anni e mezzo. Diciamo che ci piace la musica degli Stati Uniti, a viverci, non so, non ci giurerei. E soprattutto Buffalo, cittadina di origine dei Mercury Rave, che poi si trasferirono ovviamente, come tanti in quegli anni, nella New York, che esplodeva, ribolliva come al solito di tante band, e loro comunque erano una mosca bianca, perché... stiamo parlando del 1990, quindi il grunge stava esplodendo, loro erano praticamente come su una nave spaziale, e si sente che facevano dei viaggi cosmici, ma non erano certo viaggi cosmici dei Cosmische Courier, quelli tedeschi degli anni 70, non era il prog degli anni 70 inglese, non era certo la psichedelia californiana, era come se la nave spaziale dei Gong fosse atterrata a Buffalo e fosse come arrugginita e loro l'avessero riscoperta, ma non è più la stessa cosa, un po' perché il sole, come dire, sul lago Erie, no, forse non c'è mai stato quello della California, no, senza il forse. So Ed eccoci qua di nuovo in diretta. Prima non abbiamo detto il nostro numero di cellulare per mandarci gli sms, li potete mandare anche su WhatsApp, si chiama 348 76 49 289, lo ricordo, 348 76 49 289. E noi ripartiamo con i nostri Mercury Rev, che, lo ripetiamo, venivano da una zona un po' periferica. Chissà che l'abitare comunque non proprio New York, non essere cresciuti nella, c'è poco da fare, modaiolo New York, stava cambiando pesantemente New York in questi inizi degli anni 90, non era più la città più pericolosa del mondo giù di lì, che era degli anni 70, quella dei Guerrieri della Notte. Giuliani ormai stava per essere eletto e magari era ancora un buon porto dove approdare per con la nave spaziale a sto punto per produrre un po' di musica, ma non è che Mercury Rev siano mai arrivati al vero successo con questi primi due album, che comunque la critica considera come album molto molto importanti, proprio forse dovute alla loro originalità nel panorama musicale dell'epoca. Sì, parliamo dei primi due, appunto, del 91, Year Selfish Steam, che stiamo ascoltando in questi, insomma, in questi primi pezzi, e poi il secondo del 93, scritto Boches. Non so come si possa leggere, insomma, comunque Boches del 93, e dove abbiamo appunto David Baker alla voce. E poi David Baker lascia il gruppo per problemi di tossicodipendenza e viene poi sostituito. Non che gli altri ne fossero, come dire, estranei. Leggende narrano che la Virgin Atlantic, la compagnia di Branson, Richard Branson, aerea, dal ritorno al loro primo tour in Inghilterra, perché ebbero un buon successo in Inghilterra, erano distribuiti da Rough Trade, insomma, cercò di cavare un occhio al chitarrista con un cucchiaio, e da lì la Virgin decise di bannarli, insomma, e proibire loro i voli sulla compagnia. Quindi c'è anche un DASPO per i viaggiatori di aereo. Eh sì, non solo per i tifosi di calcio. I see black, I see you in a crack. I see snow, I see cold, I see someone getting old. Ooh, and it's cold outside. So cold outside. I need pink, I need green, of obscene. Outside. siete sempre su Radio Città del Capo 94.7 96.250 per ascoltare la storia, insomma, di questo gruppo da Buffalo, forse il primo gruppo che viene, cioè che riscuote un certo successo a livello internazionale, venendo da una città così fredda, Buffalo, famosa soltanto forse per la siderurgia e per il freddo, perché comunque è una delle più fredde negli Stati Uniti. Però loro, insomma, tanto freddi non sono, che comunque delle teste matte, come dicevamo prima, dei casini che combinavano sugli aerei, tra l'altro. E loro comunque nascono nella metà degli anni 80, però il successo lo ottengono negli anni 90, a Buffalo appunto. E i primi lavori, quelli proprio degli anni 80, dei primissimi, riguardano film, colonne sonore per film di studenti, quindi c'è anche una università con dipartimento di cinema a Buffalo, e anche B-movie, insomma, loro fanno queste colonne sonore. Dopodiché appunto nel 91 il successo avviene con Yourself Is Steam. E una psichedelia che comunque si distingue sicuramente da quella dello shoegaze inglese, e anche perché hanno un uso molto più moderato del muro di suono. Loro comunque arrangiano con soffici barocchi, insomma, passando al pop psichedelico più tenue, grazie anche comunque ad archi, violini, no? Qualcosa che magari nello shoegaze inglese non si vedeva, non si era mai visto. We'll be right back. personal memory of mine. The first thing I remember of Mercury Rev is when I saw Chasing a Bee on MTV. Yeah. A pretty almost disturbing video. And the album yourself, Steve. Mi piace la parola epico, dice Jonathan Donahue, che sentite sottofondo. Non penso che significhi che tu debba essere gli Emerson, Lake and Palmer per forza. Non mettiamo un limite temporale nelle nostre canzoni. Se ci vogliono 10 minuti per una canzone per funzionare, le usiamo. Questo è come sarà la canzone. Tutto questo dovessi confrontare con la canzonetta da 2-3 minuti per essere in radio, non ce ne frega un cazzo. Ce ne freghiamo, ce ne sbattiamo. E comunque tu continui a muoverti, stiamo sempre cercando di andare il più lontano possibile da noi altri per quanto sia possibile. Questo è il loro processo compositivo, non sono il tipico gruppo che si trova tutte le serate, anzi, mi piacerebbe poter dire che noi siamo una band che beve assieme e che pensa la stessa cosa, ma non è per niente così, e Dio solo lo sa. Non è che non siamo amici. Anzi, qualche volta ci sono episodi di violenza borderline. Infatti, come abbiamo detto prima, il cantante cercò di cavare un occhio al chitarrista. Ma insomma, praticamente si trovavano ogni tanto, tipo una volta a settimana, una volta al mese, registravano il disco e via. Anche perché, abbiamo detto prima, hanno fatto un piccolo tour in Inghilterra, ma negli Stati Uniti i Mercury Rev all'inizio degli anni 90 erano un po' schiacciati dal grunge, sicuramente erano praticamente dei sconosciuti. Thank you. people, which is often forgotten. Hai bisogno di tutti qua, per suonare. Tirati e non proprio loro agio, anzi loro disagio, per far bollire la pentola, diciamo. Noi siamo come uno di quei pesci preistorici sul fondale del mare. Non vedi realmente gli altri perché è così scuro e tu sei sotto una così grande pressione. Noi certamente vediamo tantissimi film sulla natura. Facciamo video e mettiamo le nostre canzoni su documentari sulla natura. Così come, per esempio, Very Sleepy Rivers. C'è questo giochetto che prova, questo pisciolino che prova a cercare la sua strada nell'acqua. Non è come noi possiamo dire che vediamo strani film o snuff tipico dei gruppi hardcore o più soprattutto heavy metal. Come ispirazione, come le altre band. Abbiamo abbastanza tensione tra di noi, non c'è bisogno di vedere altri film violenti, molto meglio la natura per tranquillizzarci. Questa. Penso sì. Penso. Sono sicuro. Ah, tanto that little self or those little Jonathans, those diminishing a bit in importance, and maybe i perdenti non hanno potenziale. È la stessa cosa con il Mercury Rev. Non c'è una scala per noi, nessun posto dove andare. La compagnia discografica ci sta riempendo di stronzate, dicendoci che andremo in Inghilterra e suoneremo davanti a migliaia di persone in uno di quei vecchi grandi show. E noi gli abbiamo risposto: non c'è bisogno che tu ci dica delle stronzate. Perché migliaia di persone dovrebbero venirci a sentire, a meno che non ci sia un altro Live Aid? Jonathan. All the fishes make them all try. Oggi è successo qualcosa. Ci siamo fermati da mia mamma e ha scoperto che saremmo andati in Inghilterra ed è impazzita e mi ha detto di non andare da lei né per Natale fino alla prossima Pasqua. Non ho capito come mia madre abbia potuto capire e imparare del fatto che noi saremmo andati fino in Inghilterra. Non penso legga fanzine. Eppure l'ha scoperto ed era terrorizzata. I hit the slower street. I park already to be robbed by people that I meet. I know, I know, I know, I know, I know I'm here. I know, I know, I know. Got nothing to fear. Pushy, pushy, pushy, pushy, pushy, pushy. Don't push. I'm an insect. I'm a figment. I'm a chief. Is a genuine minion. Imaginations, imaginations. Imagine my frustrations. Think a fight with a 45 caliber won't help you. La prima impressione è che il sound caotico e vorticoso dei Mercury Rev abbia una funzione catartica, ma ogni brano nasconde nevrosi terribili che amplificano quelle del Neil Young più elettrico e che danno origine ad atmosfere malate e decadenti, quindi non la spensieratezza e ottimismo psico-hippie degli anni 60. No, sono troppo sconclusionati, anzi il loro dominio d'elezione è l'essere sconclusionati. Affermano tutto, quindi niente, e significano un sacco di cose. Insomma, è un gran mescolio. Il bello è che i dischi suonavano perfettamente assonanti con quelli dei Dinosaur Junior, solo meno rumorosi e più sognanti. Quindi magari anche un po' meno nichilisti. Chi lo sa, forse qualche via d'uscita in realtà la vedevano. Con questa bella pippata finale vi salutiamo, diciamo buonanotte a tutti, anche perché ormai sono le 22 minuti primi. Ringraziamo Valerio in console e Margherita per lo scritto sul nostro blog, lo ricordo, si chiama thisisnotanexit.altervista.org. Beh, buonanotte a tutti e a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Ciao! Snow skating around the only place you know, praying for your hair to grow. Remember the Bible say, back before the war, everything. muscle cars back before the war. The boys were around in the muscle cars. Everything was sugar free, everything was sugar free. Pump up the volume.